Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini, nuova puntata di Respiro che inauguriamo in compagnia di Andrea Poggio, direttore generale di Legambiente, con il quale facciamo il punto sulla manifestazione Puliamo il Mondo. Si è tenuta nello scorso weekend, è una manifestazione ormai ben nota in Italia, ma anche all'estero, perché dall'estero arriva in Italia, arrivò in Italia ormai più di 10 anni fa. Una manifestazione durante la quale i gruppi di volontari di Legambiente, ma non solo, anche comitati di cittadini, gruppi di Boy Scout, gruppi parrocchiali, si impegnano a ripulire boschi, fiumi, mari, campagne, tutto quello che viene inquinato dai rifiuti lasciati per le strade. Andrea Poggio, allora com'è andata quest'anno? È stato grandioso, è stato un bel Puliamo il Mondo. Stimiamo 700.000 partecipanti, oltre 100.000 erano già iscritti prima della giornata, ma poi hanno partecipato tutti con i loro familiari, anche perché c'era bel tempo e quando c'è bel tempo ovviamente la partecipazione è molto più assidua. Sono saltate solo poche località in Piemonte, in Lombardia sabato mattina e qualcosa sulla costa tirrenica della Calabria. Partecipazione entusiasta anche questa anno, anche se c'era un fracco da faticare. Alcuni Puliamo il Mondo sono stati particolarmente avventurosi, complicati, importanti. Beh, penso alla rimozione di tutta la discarica che c'era intorno al campo Rom a Torino, con la loro partecipazione, con la partecipazione degli stessi Rom, anche perché una discarica tira l'altra, chiunque vede, anche l'italianissimo, quando vede un po' di zozzeria nelle periferie non fa altro che aggiungere zozzeria a zozzeria. E poi c'è anche il demente, quello che io penso che sia proprio un demente, cioè quello che fa una fatica boia a portare in mezzo un campo un televisore piuttosto che un frigorifero dismesso, quando potrebbe benissimo e molto più comodamente portarlo alla discarica comunale o addirittura farsela venire a prendere. Esatto, infatti, certo, magari si deve pagare quei 10 euro, quei 20 euro, ma scusami, ma puoi mettere la fatica e il rischio di portarsi, pur di inquinare. E poi valutiamo già adesso almeno 100.000 firme per lo stoff ai sacchetti di plastica. Perché questo era uno degli obiettivi anche della manifestazione, insomma. Parliamo anche di questo, dello stop ai sacchetti di plastica. Questa petizione, perché cos'è, come si fa poi dopo a firmarla per chi fosse interessato? Beh, iniziamo dall'ultima. Allora, per chi volesse firmarla e avere informazioni ovviamente prima, www.puliamoilmondo.it. Online credo che siamo già quasi 5.000 firme, ma almeno 100.000 calcoliamo di averne raccolto nei vari banchetti di Puliamo il Mondo. In alcuni casi siamo andati anche davanti ai supermercati a promuovere la petizione. Perché? Beh, perché tra tutti i rifiuti, quelli che sono più volatili e quindi basta un minimo di disattenzione per trovarsi sparpagliati dappertutto, sono quelli di plastica, in particolare i sacchetti. Pensate, avete in mente lungo le sponde dei fiumi dopo le piene, che in tutti i rami si trovano avvolticchiati, annodati, vecchi sacchetti più o meno distrutti e degradati, magari che stanno lì per anni, oppure quando lungo le passeggiate che si fanno nei boschi si rimuovono un po' di foglie e sotto si trovano seppelliti sacchetti di plastica che sono lì da una vita e mezza. Ecco, tutto questo fa sì che dobbiamo pensare a prevenire, non soltanto a pulire, no? Per cui abolire i sacchetti di plastica usa e getta, farli diventare delle sporte della spesa realmente riutilizzabili, questo è l'obiettivo che ci stiamo proponendo. Perché dovrebbero andare fuori legge questi sacchetti, no? Il timore è che invece i tempi si allunghino. E beh, come spesso succede in Italia, se non succede niente, la legge passa inosservata e all'ultimo momento il governo fa la proroga. È un po' quello che è successo l'anno scorso, perché già l'anno scorso, con la fine dell'anno, doveva finire la possibilità di commercializzare o regalare sacchetti di plastica nei negozi per la spesa, e rischia di succedere anche quest'anno, cioè se i supermercati e i negozi non si attrezzano con dei sacchi alternativi, o meglio, mettendo a disposizione delle economiche robuste sporte della spesa riutilizzabili più volte, magari di quelle che si possono avvolgere, piegare in maniera tale da tenerle sempre pronte in macchina o addirittura in borsetta, fin quando questo non succede, la vecchia abitudine di avere il sacchetto usa getta, pensate, ne facciamo fuori solo in plastica 300 a testa all'anno. Anzi, basta fare una giornata fuori e vedere quante buste ci riportiamo indietro alla fine, no? Uno basta che lo faccia una volta il conteggio e poi si rende conto, insomma. Farmacia, davanti al supermercato mi ha fatto una domanda. Guarda, c'è una domanda che possiamo farci tutti quanti e dalla risposta si capisce già cosa sta succedendo nella nostra vita. Quanti sacchetti di plastica abbiamo in casa? Un'infinità, che ci si dimentica di portarsi dietro la volta dopo. L'abitudine dovrebbe essere quella, appunto, di tenerseli o in borsa o in macchina e utilizzare tutte le volte quelli, fino a che morte non ci separi da questi sacchetti, ma perché non reggono più, non perché siamo consumatori di sacchetti. Ecco, certo, questo sarebbe il meglio. Senti, la giornata di Puliamo il Mondo è purtroppo coincisa con l'esplosione di un'altra emergenza rifiuti a Napoli. Sì, ma è per quello che abbiamo voluto ricordare Angelo Vassallo proprio nella giornata di Puliamo il Mondo. Angelo Vassallo, sindaco di un piccolo comune in provincia di Salerno, tra l'altro un comune riciclone, cioè in quel comune si supera il 70% della raccolta differenziata. Un sindaco che ha saputo far diventare bello il proprio paese, 3.000 persone che lo abitano, è un comune 5 vele di Touring Club Eleg Ambiente per l'accoglienza turistica, difende il parco. Per tutte queste ragioni si è scontrato con la camorra ed è stato ammazzato. Abbiamo dedicato volutamente il mondo a lui e abbiamo ricordato la differenza tra questi comuni virtuosi che ci sono anche in campagna e l'emergenza che sta sommergendo di rifiuti un'altra volta Napoli, ma sta già sommergendo ciclicamente Palermo. Eh sì, perché di Palermo si parla poco, ma c'è anche lì il problema, è forte. Ma sembra che la questione dei rifiuti sia diventata una roba di destra e di sinistra, allora si tira fuori soltanto quando c'è da far fuori l'avversario politico, ma chi se ne frega, noi vogliamo la raccolta differenziata, punto. Ci saranno i rifiuti da mettere a destra e quella a sinistra, ma dei diversi bidoni, non dello schieramento politico. Certo, vetro, plastica, carta e così via. Grazie Andrea, ti lascio. Grazie a tutti voi, davvero, ci seguite sempre, ciao. Grazie ancora. Ringraziamo Andrea Poggio, direttore generale di Legambiente, e diamo il benvenuto al secondo ospite di questa puntata, con il quale parleremo di acqua e di case dell'acqua. È Alessandro Ramazzotti, presidente di CAP Holding, ovvero l'azienda pubblica partecipata da circa 200 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Buongiorno. Perché Ramazzotti è nostro ospite oggi? Perché è stata inaugurata recentemente la prima casa dell'acqua di Parigi, che è stata sì realizzata dall'azienda idrica francese Eau de Paris, ma grazie alla collaborazione di CAP Holding. Che cos'è una casa dell'acqua? È una vera e propria casetta alla quale chiunque può tranquillamente approvvigionarsi di acqua pubblica, liscia o gassata. In Lombardia sono già 155, in Italia sono 200, adesso ne abbiamo una, la prima, all'estero, in Francia, no? Com'è nata questa collaborazione? Vi siete conosciuti come? Siamo conosciuti nell'Associazione Acqua Pubblica Europea, cioè delle grandi aziende pubbliche italiane, francesi, belghe e svizzere hanno fatto un'associazione europea e lì l'esperienza italiana della Casa dell'Acqua è piaciuta e quindi noi adesso abbiamo aiutato, tra l'altro i francesi fanno fatica a farsi aiutare, questo io dico, posso dirlo con una battuta, però devo dire che alla fine hanno capitolato. Del resto se volevano farlo avevano bisogno della tecnologia nostra. Sennò dovevano ricominciare da zero. Abbiamo fatto una gara zero, noi, certo. I francesi sono precisi, una bella gara, abbiamo presentato la nostra offerta e naturalmente abbiamo sbaragliato il campo perché questo è uno dei temi dove insomma da anni ormai ce ne intendiamo, ecco. Partiti i lavori quando? Ma i paesi sono partiti un paio di mesi fa. Quindi veloce poi il tutto. Sì, beh, abbiamo dovuto riadattare la nostra distribuzione un po' l'esigenza dei francesi, che hanno dovuto fare delle cose un po' loro, doppia distribuzione di acqua, un po' frizzante, un po' naturale, quindi abbiamo dovuto un po' riprogettare la nostra erogazione, però l'abbiamo fatto come volevano e ha funzionato benissimo. Poi sai, i nostri sono sistemi che uno pigia il tasto un milione di volte e deve sempre funzionare. Sì, certo. Perché se si inceppa guai. Per noi abbiamo però solo. Questa francese di Parigi dov'è che è? In quale punto della città? È vicino alla Bastiglia, un bellissimo parco. Guardi, fra l'altro se le capita di andare a Parigi ci vada, io un po' Parigi la conosco. Lì hanno fatto un bellissimo parco che, diciamo così, hanno trasformato una vecchia ferrovia, credo una vecchia metropolitana, in una grande passeggiata di verde. Bellissimo. Beh, avete già richieste da altri paesi o da altri luoghi di Francia dopo questa esperienza? La presidente dell'associazione, che è Anne Lestra, che è anche assessore alla municipalità di Parigi, ci ha detto che altri, come chiamano l'arrondissement, hanno già chiesto di aver installato la Casa dell'Acqua. E poi adesso ci muoveremo come associazione per installare, se riusciamo, in Belgio, in Svizzera, e poi adesso arriveranno i tedeschi nell'associazione, quindi se riusciamo facciamo delle Case dell'Acqua un po' un elemento così distintivo delle associazioni pubbliche dell'acqua in Europa. Ecco. Certo, tra l'altro per voi può anche rappresentare una buona opportunità di business, perché poi questo è. Sì, beh sì, installare Case dell'Acqua in Europa ci interessa anche per noi, poi abbiamo delle aziende che lo fanno che con lavorano, noi. Poi, certo. Le aziende come CAPA hanno un vantaggio, che mettono in moto il lavoro di tante aziende private. Diciamo così, fare delle Case dell'Acqua in Europa vuol dire anche aprire grandi opportunità per le imprese italiane. Fondamentalmente, perché noi adesso in questa Casa dell'Acqua non ci abbiamo guadagnato niente, insomma. L'azienda si è ripagata i suoi costi. Però certo, può essere l'inizio di altri lavori, un investimento esatto. Per il futuro. Anche se le dico che questa nostra iniziativa, questo nostro protagonismo sta cominciando un po' a irritare la Mineralacqua. Però obiettivamente noi non vogliamo intrometterci nel business di Mineralacqua, lei l'ha capito, non dobbiamo vendere più acqua noi, stiamo cercando solo di spiegare che la nostra acqua è buona. Noi infatti non vogliamo neanche promuovere la vendita dell'acqua, paradossalmente, non è che ci interessa, anche perché quanti metri cubi in più vendiamo, non è quello, non è che abbiamo un business che fatturiamo, abbiamo interesse invece a certificare, diciamo così, la qualità dell'acqua e anche un po', fra virgolette, la bontà del nostro lavoro. Abbiamo bisogno di riaffermare che garantiamo il prodotto che eroghiamo e che è un prodotto di qualità ed è buono, anche perché abbiamo subito negli anni una campagna che indirettamente, voglio dire, non voglio essere malizioso, ha trasmesso un'idea dell'acqua di rete non buona, cosa che invece non è assolutamente vero. Quindi abbiamo bisogno di questo e poi abbiamo bisogno anche, dimostrando anche che l'acqua è buona, dimostrare che ci sono delle aziende, delle professionalità, un'esperienza, una tradizione persino, CAP esiste da 80 anni, che diciamo nei territori ha presidiato questo servizio e l'ha ampliato, l'ha modernato. E naturalmente lo facciamo anche un po' rendendo questa cosa un po' appetibile, un po' interessante. Io dico sempre scherzando, con questa piccola civetteria dell'acqua frizzante, no? Che è piaciuta a molti francesi, direi anche il nome che gli hanno dato. L'appetiante, perché, però piace molto anche a noi, perché il fatto che sia frizzante è uno degli elementi trainanti delle Case dell'Acqua anche nella provincia di Milano, no? Perché lì poi è fra l'altro facile fare anche il paragone fra l'acqua frizzante di rete e l'acqua frizzante che si compra in bottiglia. Che differenza c'è? Ma io dico che sono buone tutte e due, però per noi è una vittoria affermare che l'acqua di rete è buona come l'altra. A noi basta questo. Non vogliamo dire che l'acqua è più buona, diciamo è buona anche la nostra. La gente scelga quella che preferisce. Ci sono tante marche, c'è anche l'acqua di rete e questa è la nostra battaglia, la nostra vittoria. Si scelga l'acqua che si vuole. Poi aggiungo però una piccola battuta, la differenza che l'acqua di rete è buona come quella in bottiglia, ma non consuma plastica e non la spreca, questa è la differenza. Noi parliamo scherzando di acqua chilometro zero, cioè si aboliscono le bottiglie di plastica. In Italia il consumo di bottiglie di plastica per l'acqua in bottiglia è feroce, parliamo di 6 miliardi di bottiglie di plastica all'anno. Bottiglie che purtroppo sappiamo spesso non finiscono là dove dovrebbero finire, cioè nel riciclo della plastica, ma in giro per i nostri boschi e le nostre campagne. Presidente, io purtroppo la devo fermare perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio lei per essere stato con noi. Ricordo Alessandro Ramazzotti, presidente Capo Holding. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora per una nuova puntata di Respiro. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24.